Bentrovati. Questa trasmissione si chiama Soul Time e prende dal titolo da questo pezzo che abbiamo appena ascoltato girare sul giradischi di Shirley Ellis, che si chiama per l'appunto Soul Time. Questa trasmissione vuole farvi ascoltare quello che si chiama Northern Soul, prevalentemente Northern Soul. Poi ogni tanto faremo delle puntate qua e là sempre all'interno della musica soul. Cos'è il Northern Soul? Magari molti di voi già lo conoscono, però così iniziamo con un brevissimo cenno storico. È un genere musicale, sia musicale che di danza, che ha conosciuto il suo picco massimo e comunque anche la sua nascita come movimento a sé stante nel nord dell'Inghilterra durante gli anni 70. Il Northern Soul appunto può essere considerato l'unico genere musicale che prende il nome non dalla località dove veniva prodotto e suonato, ma dalla località dove veniva per lo più apprezzato, appunto il nord dell'Inghilterra, dove si è andata a creare una vera e propria scena dagli anni 70 e che dura tuttora e si è diffusa in tutto il mondo. Parlerò poco, voglio farvi ascoltare molta musica, quindi poi piano piano, i cenni storici, c'è tempo, via via ne metteremo altri. Allora, il prossimo pezzo, che è già sul giradischi, il tempo di mettere pausa, che ci andiamo ad ascoltare, è un pezzo delle The Velvets che si chiama I Gotta Find Somebody. The Velvets è un gruppo del Texas attivo e formatosi nel 1959, che ha riscontrato diverso successo, arrivando anche abbastanza in cima alle classifiche, anche soprattutto in Inghilterra. È stato fondato appunto nel 1959 da Virgil Johnson, un inglese, una insegnante di inglese, con quattro sue studentesse. Ci andiamo ad ascoltare questo che è un grande classico del Northern Soul. Infatti in queste prime puntate comunque ci soffermeremo molto sui classici del Northern Soul. Ci andiamo ad ascoltare I Gonna Find Me Somebody, The Velvets. Eccoci qua, queste erano le Velvets con I Gotta Find Me Somebody. Allora, si parlava appunto del Northern Soul, così forse molto più più chiaro di quello che posso dire io, volevo leggervi quella che è una frase rimasta alla fine anche abbastanza storica, perché qui si va a definire probabilmente per la prima volta in maniera chiara e decisa, in un'intervista del 2002, il collezionista e giornalista inglese Dave Godin spiega come è nato il termine Northern Soul. Ve lo vado a leggere testualmente. Notai che i tifosi delle squadre di calcio del nord erano a Londra per seguire la loro squadra. Entravamo nel negozio per comprare dischi, ma non erano interessati agli ultimi sviluppi della classifica americana. Mi si appunto il nome come se fosse un termine scenografico per le vendite. Era come dire, se hai dei consumatori del nord, non perdere tempo riproducendo i brani della classifica USA, ma semplicemente riproduci ciò che loro vogliono, cioè il Northern Soul. E così è nato il termine Northern Soul, cioè Londra ha tantissime squadre di calcio nel campionato inglese, maggior parte delle squadre di calcio della Premier sono appunto di Londra, quindi quando le squadre del nord dell'Inghilterra scendevano a Londra per seguire le partite di calcio, assalivano i negozi di dischi, ahimè all'epoca si comprava ancora il vinile, e appunto David Godin, che era sia un giornalista, un collezionista, ma anche un rivenditore di musica in vinile, trovava questi ragazzi, questi operai, comunque gente della classe operaia, che acquistava dischi, ma appunto completamente fuori dalle logiche della classifica e della musica che andava di moda. Quindi ha iniziato a interessarsi ed è venuto fuori che nel nord dell'Inghilterra questa roba gli garbava un sacco. Quindi proseguiamo ad ascoltare altri classici del Northern Soul. Ora ci andiamo ad ascoltare The Precisions. Che è un gruppo di Detroit nato intorno agli anni, i primi anni 60, è famosissimo proprio per questo pezzo che si chiama If This Is Love. Per chi ascolta Northern Soul è un classico assoluto, ha riscosso anche questo pezzo, perché comunque nel Northern Soul tanti pezzi erano anche di classifica, non interessa quello non c'è per forza la ricerca al pezzo underground, diciamolo così, anche se la scena rimane underground ovviamente. Questo è un pezzo appunto, If This Is Love, che è arrivato addirittura a 26° nelle classifiche dell'R&B dell'epoca e 60° nella classifica della musica pop, quindi era ascoltato un po' da tutti, ecco. Nel Northern Soul questo è un classico assoluto, quindi ci ascoltiamo The Precisions. Eccoci qua. The girl that stood beside me yesterday. continuiamo con la musica. Adesso ci andiamo ad ascoltare James Fountain, Seven Day Lover. Questo era James Fountain con Seven Day Lover. Allora, il tempo di cambiare un attimino al volo con il microfono nel gomito il disco. Eccoci qua. Allora, ho appena selezionato un gran bel pezzo che si chiama You Don't Mean It. Il pezzo lo canta Towanda Burns. Scuserete la pronuncia, ma sì, Towanda. Credo sia Towanda Burns. Questa è You Don't Mean It. You said you didn't mean. Ok, questa era You Dominate di Tawanda Bairns. Allora, parlavamo appunto del Northern Soul. Il Northern Soul è un genere musicale strettamente legato a quello che è la danza. Cioè, ci sono durante le serate Northern Soul, sia quelle attuali, ma soprattutto anche dell'epoca, la danza era strettamente legata alla musica. Era un vero e proprio proseguimento di quella che era la musica. Le serate danzanti, chiamiamole così, erano vere e proprie gare atletiche in cui la gente si preparava atleticamente per avere la performance migliore. Era una sorta di gara fra i ballerini e le ballerine. E infatti questi pezzi che stiamo ascoltando qui alla questa puntata zero di Soul Times sono dei classici delle sale da ballo. Poi faremo delle puntate specifiche sulle sale da ballo storiche come il Wigan, il Blackpool, Mecca, eccetera eccetera, che hanno fatto la storia di questa scena. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un altro classicone di Billy Butler che si chiama Right Track. Appunto, la traccia fra un pochino parte sul giradischi, il tempo che lo continua inizi a solcare. Questo è Billy Butler, Right Track. Girl, what's on your mind? What are you trying to tell me now? Are you feeling sad and blue? Because money's eccoci in studio. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo che merita davvero davvero tanto. Sto sempre lottando con il giradischi, ecco qua. Allora, un pezzo che merita davvero davvero tanto, un altro grandissimo classico che si chiama Backstreet. Questo è Edwin Starr. Show me the back streets. I sat without knowing each other's name. And soul is the only thing you need to join right in and swing. Where people stick together, one for all and all for one. Where they don't care how much money you got, as long as you're having fun. So show me the back streets. Show me the back streets. Show me the back streets. Come on, show me the back streets. Yeah, yeah, yeah, yeah. Stranger in any town is a very lonesome thing. But if I find the back streets of any town, I know I'll find a friend. So show me the back streets. Show me the back streets. Show me the back streets, babe. Show me the back streets. Backstreet di Edwin Starr. Impazzita la radio, non è impazzito lo streaming, questo è Toto Cutugno. L'ho scelto come sigletta per quella che sarà la rubrica di Soul Time dedicata alla musica soul in Italia. Allora, nel corso degli anni la musica soul in Italia non ha mai trovato grossi spazi, però scavando bene, ogni tanto in qualche pezzo sicuramente le influenze di quello che è il soul americano ce la infilavano, con la melodia, con i dovuti accorgimenti per un pubblico completamente diverso appunto da quello americano o da quello inglese. Quindi ci andiamo ad ascoltare adesso Un bambino sul leone di Adriano Celentano, dove il basso e la batteria e anche l'utilizzo della voce è prettamente soul. Questo è Adriano Celentano. Solo me ne sto alla finestra, oggi è un giorno in bianco e nero, pioverà. Cerco malinconico nel tempo qualche sogno che ho già fatto anni fa. Il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu e c'è una nuvoletta che discende di lassù. Si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra a un leone c'è un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi, e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Nei prati azzurri galoppando sui cavalli bianchi e neri giocherò. Sulle grandi ali colorate di bellissime farfalle volerò. Seguendo le formiche in fila indiana marcerò. Poi ruberò il violino alla cicala e suonerò. e chi mi ascolterà canterà con me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra sopra a un leone c'è, un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sanno parlare come noi, e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu e c'è una nuvoletta che discende di lassù, si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra sopra a un leone c'è, un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sanno parlare come noi, e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. E questa era la rubrica L'America sta qua, come dice il saggio Toto Cutugno. Allora, torniamo alle atmosfere delle sale da ballo inglesi. Ci andiamo ad ascoltare adesso un gran pezzo. Questo si chiama Too Late, è di Larry Williams e Johnny Watson. Questo era Larry Williams. Proseguiamo con la selezione musicale. Il tempo appunto di spostare la puntina e di cambiare disco. Adesso ci andiamo ad ascoltare un altro grandissimo classico del Northern Soul. Appunto, come dicevo, non mi ricordo se l'ho già detto, lo ripeto, queste prime puntate saranno dedicate ai grandi classici del Northern Soul. Poi piano piano andremo ad approfondire quelle che sono state le varie scene, le varie città, le varie città in cui Northern Soul si è diffuso, quindi faremo delle puntate apposite. Adesso ci andiamo ad ascoltare un cantante che si chiama Eddie Parker. Eddie Parker era originario del Michigan, città impronunciabile, credo Saginaw, andava spessissimo a Detroit, che era la città più vicina, e comunque una città storica per quello che riguarda il soul, per registrare, insomma, per dare anche una spinta alla sua carriera, visto che in Michigan, insomma, c'era la scena era abbastanza povera. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare I'm Gone di Eddie Parker. Sarà Eddie Parker con I'm Gone. Allora, proseguiamo la selezione musicale con un gruppo abbastanza oscuro. Si chiamava, non so mai se lo pronuncerò bene, ma si chiamava The Tomangles. È un gruppo appunto abbastanza oscuro di cui non si hanno poi alla fine tantissime informazioni. Allora, questa selezione, ora nei Tomangles mi è venuto in mente questo aneddoto. Molti gruppi, o comunque molti cantanti, erano anche molto oscuri, sconosciuti e più, ed erano le selezioni dei DJ, erano frutto di frequenti viaggi negli Stati Uniti per trovare comunque canzoni rare che nessuno avesse mai ascoltato e che comunque contenessero sia nei testi quello che la gente voleva ascoltare, quello in cui riusciva a immedesimarsi, ma anche, forse anche soprattutto, nella musica, quindi nel ritmo e nel rendere le serate sempre a livello danzante sempre più interessanti, con sonorità nuove e per appunto sconosciute più. Quindi ci ascoltiamo The Tomangles con un bel titolo d'amore che si chiama I Really Love You. The Tomangles. One thing I'm able to say, and that's I really, really questo era Ok. Allora, questa puntata numero 0 sta rapidamente volgendo al termine, l'idea di farla durare un 40-45 minuti ciascuna. Proseguiamo con quelli che probabilmente saranno gli ultimi due pezzi. Adesso ci andiamo ad ascoltare un cantante leggermente conosciuto, proprio lo conoscono in pochissimi. Lui è Marvin Gaye, ovviamente un cantante che ha venduto milioni di copie durante la sua carriera. Anche alcuni pezzi di Marvin Gaye sono entrati all'interno della scena Northern Soul. Questo pezzo in particolare si chiama This Love Stirred Heart of Mine, tra parentesi, It's Killing Me. Appunto, ci andiamo ad ascoltare Marvin Gaye. Questo era Marvin Gaye. Allora, sì, appunto, la puntata sta svolgendo al termine. Mi ero dimenticato che in realtà avevo un'altra rubrichetta da fare. Non ho ancora preparato la sigla, ma questa rubrica, in realtà neanche il titolo, però questa rubrica più o meno si può intitolare I pezzi che mi piacciono tanto a me. Sì, o i pezzi che ascolto nelle cuffie mentre vado al lavoro sull'autobus. Questo pezzo che mi piace tanto a me, che trovo di grandissima eleganza compositiva, è di due voci femminili che rispondono al nome di Dottie e Millie, e si chiama Talking About My Baby. E vi saluto con quest'ultimo pezzo. A risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao. Knows I like him like